Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo parlando della gara per i treni ad alta velocità, perché ricordate forse la vicenda, ma insomma oggi il TAR del Lazio si è espresso e ha deciso di non sospendere la gara, quella che vale 1.540 milioni per la fornitura di 50 treni modello V300 Zefiro per l'alta velocità, gara vinta dal consorzio Ansaldo Breda, Finmeccanica, quindi Bombardier. Però c'era stato un ricorso che era stato inizialmente accolto da chi l'aveva persa, ossia il consorzio Alstom. Il TAR ha detto: sospendere in questo momento la gara pregiudicherebbe il servizio di trasporto pubblico. E di questo parleremo subito, così come parleremo invece, andando su un fronte internazionale, dello scontro che si sta profilando tra Stati Uniti e Cina, dopo che gli Stati Uniti hanno deciso nella serata di ieri di avere dei dazi sui prodotti cinesi. In sostanza l'accusa non è tanto sul costo del prodotto cinese, ma quanto su una valuta cinese, il renminbi o yuan, che continua a essere eccessivamente debole nei confronti del dollaro. La Cina non sta facendo granché per rivalutarla. Questo va detto. E poi ancora parleremo della comunicazione nello stato di, nelle situazioni di crisi. Perché? Perché da più parti, oggi se ne è parlato anche a Roma, e molte volte lo fanno anche i governi, la politica, si dice: beh, insomma, sono i media che amplificano la crisi, la gente non consuma perché i giornali hanno solo notizie negative. Insomma, vorremmo capire se e come si pone questo rapporto tra crisi e il modo in cui la crisi viene comunicata. Nel frattempo avremo modo di occuparci anche del marmo, perché si è aperta ieri la fiera a Verona Marmo Mac, la più importante del settore a livello mondiale, un settore in cui l'Italia è leader e che ha avuto comunque le sue difficoltà. E parleremo anche della nomina del successore di Alessandro Profumo, perché è in corso a Varsavia la riunione del gruppo Unicredito, e ancora però molta molta incertezza sul nome finale o sulla coppia di nomi. Per quello che riguarda i mercati invece, più 1,2% Milano in questo momento è la migliore in assoluto, perché Parigi guadagna lo 0,2%, Francoforte lo 0,4%, Londra lo 0,6%, l'America è invariata, Milano molto molto bene grazie a Fiat più 3,6%, e cercheremo anche di collegarci con Parigi, dove c'è il salone dell'auto. UbiBanca più 3,2%, l'automatica più 2,7% come Bulgari, il 2,6% lo guadagna Unicredito, il 2% la Popolare di Milano, l'1,9% Mediolanum, l'1,8% sia Mediobanca che Exor che Pirelli, e poi l'1,7% rialzo di Intesa San Paolo e Enel più 1,3%, Generali più 1,2%, Snam più 1,1% come Finmeccanica e Luxottica. Chi perde oggi? Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, poca roba, il Banco Popolare ancora risente del giudizio di Moody's, meno 1,2%, Telecom perde lo 0,4%. Ancora, per quello che riguarda invece il rapporto di cambio euro-dollaro, siamo a 1,36 nel rapporto euro-dollaro, e su questo segnaliamo che invece l'oro oggi è stabile, ma stabile a livello record, ossia sopra quota 1.300 dollari l'oncia. L'ultima cifra, come sempre, è quella per i vostri sms: 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo già un messaggio sulla Spagna declassata. Sì, adesso lo diremo. È arrivata anche l'ultima agenzia di rating che mancava ad abbassare il voto sul debito spagnolo, non a un livello, devo dire, preoccupante. Comunque, questi i temi. Adesso le notizie in breve. Allora partiamo subito con la notizia che anticipavo. Il TAR del Lazio ha deciso di non sospendere la gara da 1 miliardo e 540 milioni di euro per l'aggiudicazione della fornitura di 50 treni V300 Zefiro per l'alta velocità. Gara indetta dalle Ferrovie dello Stato, che sono il committente, erano due in gara, il consorzio Ansaldo Breda, e quindi Finmeccanica e Bombardier, e l'altro era il consorzio Alstom francese. La gara l'ha vinta il consorzio italiano con Bombardier, però c'è stato un ricorso inizialmente accolto dal Stom. Oggi doveva in qualche modo pronunciarsi, lo ha fatto il TAR del Lazio. Che cosa ha detto il TAR del Lazio? Ha detto sospendere la gara per l'aggiudicazione della fornitura dei treni per l'alta velocità pregiudicherebbe il servizio di trasporto pubblico, e quindi ha detto un'eventuale concessione della richiesta di sospensione determinerebbe un grave pregiudizio al servizio ferroviario pubblico. Ciò nonostante, i giudici hanno comunque considerato che la numerosità e la complessità delle questioni poste con il ricorso di Alstom fa sì che quest'ultima debba trovare puntuale e esaustiva definizione nella fase di merito. Come dire, non è ancora completamente chiusa. Allora, siamo in collegamento, lo ringraziamo, con il numero uno delle Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato Mauro Moretti. Dottor Moretti, buonasera. Buonasera a voi. Allora, so che poi i termini giuridici annoiano gli ascoltatori, si entra poi nel dettaglio, però vediamo di capire. Voi, da questo punto di vista, siete soddisfatti intanto perché andrete avanti con tutto il percorso di poi realizzazione di questa commessa da 1,5 miliardi, capito bene? Sì, questa mattina Trenitalia, che è la società che ha indetto la gara e ha avuto il rapporto con il consorzio Ansaldo Breda Bombardier e la società Alstom, ha già stipulato il contratto con quelli che aveva dichiarato vincitori. Allora, ingegner Moretti, su questo però lei ha detto che da Alstom, dal consorzio, dal gruppo francese che ha perso la gara, sono arrivate parole inqualificabili, e le chiedo, la vostra ipotesi di valutare la richiesta dei danni alla società francese va avanti? Ho l'occasione di precisare, così come è stato scritto anche dalle agenzie, che io mi sono riferito non al merito delle vicende che riguardano la gara italiana dei treni, ma a parole dette dal presidente dottor Méliès, sì, di Alstom a Berlino, che ha detto testualmente queste parole, le ho per caso sotto mano. Da quando abbiamo firmato il contratto con NTV, che è la società che arriverà tra un po' sui binari italiani, non abbiamo più lavorato con l'FS, di cui fino ad allora eravamo fornitori. Avevo un eccellente rapporto con Moretti, ora non più, e chi vede in questa una strana coincidenza è nel giusto. Ecco, queste sono le parole che sono inaccettabili, perché da quando Alstom ha firmato il contratto con NTV ha avuto da noi ancora ordini, ha continuato a lavorare con noi, quindi le cose dette sono semplicemente false. E questo naturalmente è un tentativo di screditare la reputazione di FS. E noi, come normalmente, in maniera serena, ci difenderemo. Ma quindi andrete avanti su questo, sulla richiesta danni? È quello che sto dicendo. Perfetto, no, perché sull'agenzia... Però ho voluto distinguere. Sì, sì, ho capito. Problema della gara, che è una cosa... E il problema delle affermazioni del rappresentante legale di Alstom su presunti pregiudizi da parte nostra nei confronti di Alstom. Lo dimostreremo col fatto che, con i numeri alla mano, portando le cifre dei contratti che abbiamo firmato dopo la firma che lui ha fatto con NTV, e quindi in tutto il 2008, il 2009, nel 2010, i pagamenti fatti e anche naturalmente tutte le inadempienze contrattuali che loro hanno avuto, tutte le penali che hanno avuto, tutti i danni che ci hanno procurato. Ricordo in particolare i problemi che avemmo con la nevicata di quest'inverno, in cui la gran parte dei problemi sul nodo di Bologna e sull'asse Bologna-Firenze erano legati a dei problemi della tecnologia Alstom. Ecco, ricordo per memoria, perché la memoria è corta. No, allora, se ho ben capito, perché le agenzie non erano chiare su questo, quindi voi andate avanti con la richiesta danni, perché non per il tema gara, ma per un suo svolgimento, certo. Abbiamo fatto il contratto stamattina, ci sarà nel frattempo il merito del TAR, poi vedremo quello che succede, ma il contratto fino a stamattina è stato firmato, e quindi chiaro. Il raggruppamento italiano può andare avanti, iniziando i lavori e le forniture. Per quanto riguarda invece i problemi dei rapporti tra FS e Alstom, c'è una questione ancora aperta che riguarda le dichiarazioni fatte dal dottor Méliès a Berlino, e su quella cosa lì, siccome possiamo dimostrare che le sue affermazioni sono assolutamente false. Non è vero che da quando ho firmato il contratto con le TV non hanno più lavorato con noi, hanno lavorato molto, a volte bene, a volte male, comunque hanno lavorato, e quindi naturalmente quello che ha detto non è vero. Allora, c'è anche il collega dell'agenzia Radio Corriere Sole 24 Ore, Massimiliano Zampini. Massimiliano, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, questo mi sembra, diciamo, un chiarimento importante, perché dalle prime agenzie non era così chiaro la parte che riguarda le dichiarazioni ritenute offensive da parte del presidente, appunto, di Alstom Transportation, che si chiama Philippe Mélier. Su questo io vorrei ancora sentire l'ingegner Moretti, poi chiedere una cosa a te. Per far capire agli ascoltatori, visto che vedo molti messaggi al 349-238-6666, il motivo, per quello che ci può dire, per cui ha vinto il consorzio Breda, Ansaldo, Bombardier e non Alstom, che tanto ha fatto infuriare i francesi dicendo: voi in sostanza non ci fate vincere perché noi forniamo i treni a Montezemolo della Valle a quelli del consorzio concorrente sull'alta velocità NTV. Quali sono stati i motivi tecnici, per quello che si riesce a capire e ci può raccontare, ingegner Moretti? Cioè, cos'è? La commissione ha lavorato dopo aver fatto una gara aperta a tutto il mondo, hanno chiesto inizialmente documenti anche aziende giapponesi, oltre che aziende europee, e questo perché, lo voglio sottolineare, il treno che abbiamo messo a gara, le specifiche, cioè quello che abbiamo chiesto come contenuto tecnologico, è qualcosa che ancora sui treni in giro per il mondo non c'è. Quindi abbiamo voluto fare una gara di forte contenuto innovativo, con delle specificazioni tecniche e tecnologiche all'avanguardia. Su questo hanno chiesto informazioni in tanti, poi alla fine hanno partecipato, nel senso che hanno presentato le loro offerte, due raggruppamenti: la società Alstom e il raggruppamento Ansaldo Breda Bombardier. La gara è stata pubblicata come gara all'offerta economicamente più vantaggiosa, basata su punteggi che vengono assegnati, sono stati assegnati dalla commissione, non da me o da qualche amministratore, da una commissione specifica nominata dai vari consigli di amministrazione di Trenitalia con i mandati specifici, che ha dato punteggi oggettivi, per quanto riguarda, nel senso che erano stati dichiarati, per quanto riguarda i problemi della qualità prestazionale, tecnica, tecnologica e funzionale. Secondo, i problemi dei tempi di consegna. Terzo, i problemi del costo. Su tutti e tre questi aspetti la commissione ha rilevato che la proposta di Ansaldo Breda Bombardier è migliore dell'altra. Non so cosa c'è da scandalizzare, perché basta accettare che siamo in grado di fare delle cose fatte bene. No, guardi, si figura, a noi basta che i treni arrivino in orario e abbiano un certo livello di polizia. Le frecce nostre, se andate a vedere i dati, vanno 10 punti di migliori di quanto sono su certi percorsi del nord Europa. Sì, lei sa che... credo che i nostri clienti siano contenti, perché c'è una customer satisfaction dell'87%. No, ma lei sa che quando ne abbiamo parlato anche con lei in questo programma, il nostro rilievo non era sulla qualità degli treni ad alta velocità. Noi vogliamo ancora migliorare questa cosa. Sulla non qualità dei treni della linea normale, perché i ritardi... Adesso là si sta la linea normale, perché di tutto il mondo. Adesso parliamo di una cosa concreta. Sempre capaci a parlare del mondo intero. Mi racconta, come curiosità anche mia, due o tre di queste caratteristiche tecnologiche, se ho ben capito, all'avanguardia che voi avete chiesto per la nuova generazione di treni ad alta velocità? Sì, il contenuto più importante è quello legato al fatto che questo treno deve riuscire ad andare su dei binari costruiti per sopportare le sollecitazioni di un normale treno a 300 km all'ora. Normale treno vuol dire tutti quelli che oggi sono esistenti sulle reti o anche quelli che sono in costruzione. Deve andare ai 360, avendo a bordo un sistema di compensazione dell'accelerazione. Questa è la novità. Che vuol dire che sui binari italiani, che riescono a resistere agli sforzi che un treno normale ad alta velocità gli dà fino a 300 all'ora, il binario sente che va a 300 all'ora il treno che invece sta andando a 360 nella nuova generazione. Ho capito. Questo è il punto. di questa cosa non c'è ancora niente in giro per il mondo. Quindi abbiamo fatto un'operazione in cui abbiamo voluto fare, per adeguarla alla qualità del sistema tecnologico che abbiamo sulle infrastrutture, controllo nostro e al livello più alto del mondo, European Train Control System, abbiamo voluto completare l'idea di sistema ferroviario ad alta velocità, in questo caso altissima velocità. Hanno concorso quelli che sono in grado di farlo, noi abbiamo riconosciuto a entrambi la capacità di sapere fare queste cose. Hanno fatto la loro offerta l'abbiamo valutata, l'ha valutata una commissione di esperti interni e ha detto che è migliore una rispetto all'altra. Vabbè, lei sappiamo che... Sono sereno del fatto che chi perde va al TAR in Italia. Sono d'altra parte assolutamente soddisfatto del fatto che il TAR abbia interpretato in maniera correttissima la vicenda. D'altra parte, ripeto, non era mai successo che su gare di questo livello, di questo tipo di materiale, dove partecipano sempre 3-4 aziende grandissime nel mondo, Bombardier, Siemens, Alstom, Ansaldo Breda, se uno perde l'altro fa ricorso. Non era mai successo. Normalmente lei sa che in Francia si compra solamente di roba francese, che si chiama Alstom. In Germania si piglia solamente una ditta che si chiama Siemens. Questa è la situazione. Allora, come dire, noi l'abbiamo fatta invece in perfetta trasparenza con una gara internazionale. Non abbiamo mai preventivamente dato nessun tipo di informazione che si potesse immaginare che mi sia l'uno o l'altro fino al giorno in cui la commissione ha dato i suoi dati, e nessuno ha fatto contestazione in corso di gara. Anzi, aggiungo, non ha fatto contestazione né prima sulle cose messe in gara e sui documenti richiesti, né durante. La contestazione è arrivata. È un diritto contestare. Voglio capire. Dunque, prima dico cosa. Invece, e voglio sottolineare che non c'entra niente con la gara il ragionamento che ha fatto il signor Chiarissimo. Quando ha detto che è cambiato il clima. Sarebbe cambiato il clima se lui non avesse più avuto una commessa dal 2008 venendo di qua. Siccome lui ha continuato ad avere commesse e pagamenti di altre commesse già avute, quindi ha continuato a lavorare anche questi anni, più di altri. Guardi, compreso Ansaldo Breda, non capiamo la discriminazione. Ingegnere, è chiarissimo il ragionamento. Vedo molti scuotori che invece si concentrano sul trasporto locale e quello regionale. Volevo parlare del trasporto locale. È quello che stavo dicendo. Un attimo di pazienza. Ne abbiamo parlato molte volte, anche quando venne lanciato la nuova tariffa e i nuovi orari dell'alta velocità. In questo caso, abbiate pazienza, stiamo ragionando di una gara che comunque vale 1,5 miliardi di euro, e questo senza il contributo all'economia del paese, delle imprese che lavoreranno su questa cosa, dei lavoratori, ma soprattutto la capacità innovativa che introdurrà nel sistema italiano nei confronti degli altri. Allora, mi faccio però dire una cosa agli ascoltatori, senza nulla voler dire sulla qualità, su cui abbiamo molti dubbi invece anche noi, del servizio ferroviario per quello che riguarda il trasporto locale e regionale, ma il tema invece è un altro in questo momento. Allora, Massimiliano Zampini, domanda forse delle 100 pistole, ma perché secondo te Alstom si è ficcata in quello che, essendo francesi, potremmo definire un cul-de-sac, un vicolo cieco, con queste dichiarazioni, visto che poi la gara obiettivamente c'era stata, e visto che insomma non è che non abbiano mai operato in Italia, non sono mai stati esclusi dalle gare, poi un paese come la Francia, con uno sciovinismo che vediamo tutti i giorni nella difesa dell'economia nazionale, forse non può dare lezioni a noi. Massimiliano. Allora, guarda Sebastiano, la mia sensazione, ciò che diceva l'ingegnere Moretti è correttissimo, la mia sensazione è una, anche perché ero presente quando Alstom ha rilasciato queste dichiarazioni, il presidente di Alstom, e cioè che loro hanno contestato, questo nel merito del ricorso al TAR, la valutazione tecnica è stata fatta dalla commissione di Trenitalia, dicendo loro, questo Alstom, che nella valutazione tecnica c'erano dei parametri oggettivi su cui loro sarebbero risultati vincenti e dei parametri soggettivi su cui invece ha vinto il consorzio Ansaldo Breda Bombardier. Questo per dire che hanno lasciato un po' trapelare, come se, come diceva l'ingegner Moretti, in Francia si compra francese, come se in questo caso in qualche modo in Italia si fosse voluto comprare italiano. Però è innegabile che il risultato della commissione ha detto che il consorzio Breda Bombardier ha vinto sia sul piano tecnico sia sul piano economico. Sicuramente si sono infilati un pochino anche in questo cul-de-sac, perché è innegabile che c'è una polemica che si è fatta un po' più aspra tra il gruppo Alstom e le Ferrovie dello Stato, da quando anche, e questa è l'opinione di molti osservatori, da quando Alstom è stata scelta da quello che sarà il futuro concorrente delle Ferrovie dello Stato per fornire i treni con cui appunto la NTV di Montezemolo farà concorrenza alle Ferrovie dello Stato. Questa è la sensazione un po' che si ha, cioè di rapporti che si sono inaspriti negli ultimi tempi. Allora, Ingegner Moretti, per concludere, perché poi devo fare i mercati e l'America, due domande rapide. Un attimo, mi faccio fare domande e poi la risposta. Prima, il commento a quello che ha appena detto Massimiliano Zampini, e in effetti anche noi assistiamo un po' di polemica, battibecco c'è stato da quando loro hanno vinto la gara per i treni ad alta velocità di Montezemolo della Valle. Seconda domanda, un attimo, poi mi dai la risposta. Secondo aspetto, quando entreranno appunto e saranno operativi questi treni? Perché è un piccolo dettaglio che non abbiamo ancora chiarito. Prego. Intanto non c'è nessun dato che dimostri una nostra volontà di battibecco nei confronto del problema al Stom e TV. Se me ne portate un solo dato oggettivo, io lo prendo atto. I dati che noi abbiamo e che hanno avuto ancora più cash flow, i soldi pagati e commesse, di quanto hanno avuto altre imprese italiane in questi tre anni. Questo è il dato. Quindi non capisco qual è la contestazione del fatto che noi abbiamo avuto dei conflitti con questi. Il fatto che questi pretendessero che noi compriamo un treno con quello che ha venduto NTV, e voglio precisare che al momento l'hanno venduto in tutto il mondo in tre anni solo NTV, ci sarà un motivo. Forse non è chiaro che il treno NTV avrà delle carrozze che non hanno uno standard che noi normalmente abbiamo. Scusi, Montezemolo ha preso una sola nel comprare quel treno? No, non dico questo, non dico questo. Ho detto un'altra cosa. Sono diverse dai nostri standard. Noi avremmo dovuto modificare tutti gli impianti industriali per pigliare una cosa che era fuori standard per noi. Un'azienda nuova se lo può permettere, ma noi no. Quindi ci sono degli elementi sui quali, io vi prego, non date delle semplificazioni che poi si riversano sulla gente che non ha elementi per poter neanche valutarle. I dati concreti sono quanti soldi abbiamo pagato in questi anni dopo che hanno fatto i contratti con NTV, quante gare abbiamo fatto, abbiamo invitato, quante ne hanno perse, quante ne hanno vinte, quanti contratti nuovi abbiamo fatto, quante penali abbiamo dato, e in particolare il problema che abbiamo avuto come unico screzio è stato quello di Natale, in cui per i problemi della tecnologia Stom abbiamo avuto questo ce l'ha già chiarito. Mi scusi, siccome arrivano notizie anche da Varsavia e lì il gruppo Unicredito, io devo andare a conclusione. Mi dica solo questi treni quando arriveranno, e mi prometta però, visto che lo chiedono anche gli ascoltatori, che verrà ospite anche a parlare del resto del servizio. Io vengo a parlare del resto del servizio, non solo alta velocità. Però non di e con un tempo giusto, perché se devo venire solamente per avere in 3 minuti no, 50 domande e rispondere, non vengo neanche. Ingegnere. Mi stabilisco una base venga qui, seria, ma in quando cui facciamo il confronto tra i soldi che vengono dati per il trasporto locale in Francia e Germania rispetto a quelli d'Italia, e io sono contento. Guardi, è un quarto d'ora che siamo in collegamento, io la prendo anche per mezz'ora, non ho nessun problema, in studio, in collegamento, il tempo, il tema è così delicato che... Non ho nessun problema a venire, anzi. Allora, mi dice solo quando dovrebbero arrivare in funzione questi treni? Devono arrivare nel giro di 3 anni. Prima di questi 3 anni, invece, lei verrà ospite nostro, con il massimo tempo a disposizione, per parlare anche del resto. Tantissime cose molto più importanti anche di cui voi non parlate. Oggi abbiamo fatto il treno rosa. Non mi dica che non ne parliamo, perché abbiamo fatto interi servizi nei GR nostri. No, ingegnere, questo no. Fatelo, perché voglio dire, un'iniziativa. Sì, ho capito, ma non è unica. Non è che possiamo parlare solo di quello che non si discute neanche in Italia. Abbia pazienza, ci sono i servizi nei GR, vi ha fatto coprire la notizia. Però non è che possiamo parlare solo di quello che piace lei, ingegnere. No, parliamo anche delle cose che interessano noi, visto che io il treno lo prendo quasi tutti i fini settimana. Comunque, grazie. Ogni cliente ha i suoi diritti. Grazie a voi. All'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Ci colleghiamo, chiedo pazienza al meteo, subito, però grazie anche a Massimiliano Zampini di Radio Core, sulle 24 ore, subito con Varsavia, perché ci sono novità importanti su chi prenderà il posto di Alessandro Profumo in Unicredito. C'è Paolo Paronetto. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. Sì, il consiglio di amministrazione di Unicredit qui a Varsavia è appena terminato e da quanto è emerso all'uscita di tutti i consiglieri, il CDA ha scelto Federico Ghittoni come successore di Alessandro Profumo alla guida del gruppo. La scelta, secondo quanto riferito dal vicepresidente Luigi Castelletti, è stata all'unanimità. Soddisfatto della decisione si è detto anche il governatore della Banca Centrale Libica, Farhat Omar Bengdara, che ha inoltre aggiunto che gli investitori libici non intendono aumentare ulteriormente la loro quota. Allora, il nuovo amministratore delegato del gruppo Unicredit, cioè quello che prende l'eredità di Alessandro Profumo, a questo punto è Federico Ghittoni, e tu ce lo confermi? Esattamente, ed è attualmente, era il vice, uno dei vice CEO di Profumo, e adesso è salito l'ultimo dei vice CEO a essere nominato, e adesso è diventato amministratore delegato. E chissà quando l'ha saputo il mercato, visto che il titolo Unicredit si è mosso bene, più 1,7%. Ghittoni ha 55 anni, piacentino, laurea in legge, ha fatto carriera nel gruppo Unicredit nel corso degli anni 2000, prima occupandosi come unico responsabile di Unicredit in Turchia, poi dal 2007 in Piazza Corduso, quindi nella sede centrale di Unicredit. Qui a Milano aveva assunto il ruolo di responsabile per il centro ed est Europa, diventando poi il vice CEO, il vice numero uno. Grazie Paolo Paronetto, perché mi sembra che abbiamo bruciato un po' tutti con questa notizia. Grazie ancora da Varsavia, richiamaci se avrai novità. Adesso meteo, pubblicità, poi la borsa che ha chiuso bene e poi tutti gli altri temi che avevamo previsto. Vediamo se riusciamo a mantenere la promessa. Focus Economia. ...17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, non possiamo continuare a parlare delle ferrovie né del trasporto locale. Ricordo chi scrive che abbiamo fatto un'intera puntata anche criticando alcune scelte delle ferrovie dello Stato quando hanno pubblicato il nuovo orario dei treni a alta velocità, sopprimendo alcuni treni, soprattutto sulla tratta Milano-Roma. L'accusa dei consumatori, li abbiamo avuti in diretta i consumatori che dicevano in questo modo obbligate la gente ad andare sull'alta velocità anche chi non ne ha bisogno, insomma. I problemi di trasporto locale, vi assicuro, credetemi, li conosciamo bene perché lo prendiamo, non prendiamo solo le frecce rosse, argento o bianche, e li vediamo tutti i giorni. Così. E quindi Moretti ha promesso che tornerà con uno spazio che gli daremo per ragionare il trasporto locale sulla base anche dei soldi che riceve. Ok? Questa è una cosa. Molti di voi ci hanno scritto nel frattempo al 349-238-6666 perché vogliono sapere che cosa ha detto il Presidente del Consiglio sulle banche. Allora, visto che di banche parlavamo poco fa con l'annuncio in diretta che il nuovo numero uno del gruppo Unicredit è appunto Ghittoni, e mi riferisco appunto a Federico Ghittoni, non Nicastro, non Roberto Nicastro, ma Federico Ghittoni. Berlusconi non ha parlato delle banche italiane, lo dico a chi scrive, è tornato su un tema che aveva già sollevato, e cioè che il piano TARP, ossia il piano da 700 miliardi lanciato a suo tempo da Bush e poi ripreso da Obama per salvare le banche americane in difficoltà, è stato lanciato in America grazie al suo consiglio. E quando l'amministrazione repubblicana non fece e non mosse un dito, e lasciò fallire Lehman Brothers, questo signore andò ancora a Washington, restò un giorno intero a colloquio col presidente americano, ne venne fuori la decisione di destinare 700 miliardi di dollari affinché le banche americane non fallissero, perché altrimenti sarebbe stato il disastro. Allora, non sapremo, insomma, questa è la versione del Presidente del Consiglio, che è andato a Washington, è rimasto un giorno con Bush a spiegargli, e da lì, grazie al suo intervento, è partito il piano di salvataggio americano sulle banche. Noi ci permettiamo di osservare che forse anche il ruolo di Wall Street, delle lobby americane, dell'amministrazione, insomma, diciamo che sarà sicuramente stato ascoltato anche il Consiglio del Presidente Berlusconi, insomma. Dire che insomma l'America lo ha fatto perché noi siamo intervenuti un po' forse un po' troppo, ecco. Va bene, la borsa oggi niente polemica, la borsa. Right, Molto bene, soprattutto Milano, devo dire, rispetto alle altre borse europee, che però ha ridotto di parecchi guadagni, ma per un motivo molto semplice. Tutte le borse hanno girato in negativo poco fa, meno 0,6% Parigi, meno 0,3% Francoforte, meno 0,2% Londra, l'America meno 0,4%, l'euro è a quota 1,3594. Molto bene, dicevo, oltre che un incremento più 1,7, Fiat più 3,2%, anche perché da Parigi, dal Salone dell'Auto, ha parlato poco fa Sergio Marchionne, ha detto assolutamente ci riprenderemo il 5% della Ferrari, il nostro obiettivo è di riportare il 90% a casa del gruppo Ferrari. Sentiamo Marchionne al microfono del nostro, anzi del collega del Sole 24 Ore, l'inviato Andrea Malan. Non è un gran mese, non è un gran mese né in Italia per noi, specialmente nemmeno a livello europeo. Ma questo lo sapevamo, no? L'abbiamo annunciato a gennaio e lo stiamo confermando mese per mese fino a quando non si svuota sto tubo di incertezze, di alcuni di acquisti anticipati che sono stati fatti nel 2009 e 2008. Bisogna gestirlo con calma, con serenità fino all'inizio del 2020. L'obiettivo di portare il 90% a casa lo confermiamo. Vogliamo allo stesso tempo conservare la relazione che abbiamo con Volare come partners e come sviluppo strategico del gruppo. Credo che sia ora di riportare il resto della Ferrari in casa. Appartiene alla Fiat, è qualcosa che abbiamo avuto nel gruppo da tantissimi anni. Abbiamo investito moltissimo per creare le condizioni di un marchio di successo, adesso è un marchio imbattibile anche dal punto di vista di valore finanziario, economico. Credo che il valore a cui è stato ceduto in quei tempi, nel 2003, non rifletteva in effetti il vero valore dell'azienda, quindi era una questione di accumulare e di portarsi a casa quello che è nostro. Così appunto Sergio Marchionne, Livia Zancaner, agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Questo motivo per cui Fiat si è mossa così bene, più 3,2%? Sì, allora il titolo in realtà è già arrivato a superare anche il 4%, allora in mattinata aveva beneficiato di un possibile interesse di Volkswagen per Alfa Romeo, anche se poi il presidente della società tedesca ha precisato che non ci sono colloqui in corso, lo stesso Marchionne ha escluso la vendita. Poi gli acquisti sono aumentati appunto sulla dichiarazione di Marchionne, quindi sui conti del gruppo e appunto sulle dichiarazioni in relazione a Fiat Industrial e alla Ferrari. Quindi appunto Marchionne ha ribadito che il terzo trimestre supera le attese, nel 2010 vi sarà il rialzo dei target e quest'anno vi sarà un utile netto. Allora, il resto del mercato invece dopo le informazioni sul traffico, 349-238-6666 per gli sms. Focus Economia. :48, quasi 49, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, tarocco il tempo così il tecnico per ingannare il tecnico. Qua siamo sempre di fretta, troppi temi e poco tempo. Livia Zancaner, gli altri titoli, oltre a Unicredit e Fiat, come mai Milano meglio nettamente, quasi un punto percentuale, visto che gli altri fanno meno 0,6, noi facciamo più 0,6, più di un punto percentuale rispetto alle altre borse europee? Sì, allora in linea di massima Milano per quasi tutta la giornata ha mostrato un andamento migliore rispetto alle altre piazze europee e in particolare per il buon andamento del settore bancario e finanziario, che rappresenta quasi il 30% della capitalizzazione della nostra borsa. Infatti le banche sono andate bene ad eccezione del Banco Popolare, che ha ancora sofferto per il declassamento di Moody's e per le indiscrezioni relative all'aumento di capitale che al momento la banca ha smentito. Allora, questo, come sempre, sappiamo che il settore bancario, pesando molto sull'indice di Piazza Affari, se va bene da noi si sente e di più. Una domanda però: perché hanno girato? Io ero impegnato a parlare di ferrovie, di gare, di treni a alta velocità e quindi mi sono perso il mercato nell'ultima mezz'ora. Ma come mai hanno girato in negativo tutte le borse? C'è un qualche motivo? Sì, allora le borse hanno accelerato appunto dopo la pubblicazione nel pomeriggio dei dati macro americani favorevoli. Adesso leggeremo. E infatti poi hanno accelerato ancora dopo l'apertura di Wall Street positiva e poi in realtà gli indici americani hanno virato al ribasso. Infatti adesso il Nasdaq perde lo 0,7 e il Dow Jones lo 0,37%. Secondo gli operatori in realtà si tratta di manovre di fondi di investimento che prendono beneficio, visto che il mese di settembre è stato straordinariamente buono per le azioni. Questa è la giustificazione che viene data al momento. Esatto, nonostante dall'Irlanda non stiano arrivando buone notizie, nel senso che oggi è vero che ci sono buone notizie dall'America, mi riferisco ai dati americani sulla disoccupazione, i sussidi sono calati e anche il PIL americano nel secondo trimestre è stato rivisto leggermente in rialzo. Poca, secondo me, almeno poca importanza il taglio del rating alla Spagna, ha perso la tripla A, vabbè, resta a doppia A1. Però dall'Irlanda sono arrivate notizie che mi lasciano basito, cioè da un lato non sanno più come salvare sta cavolo di Anglo-Irish Bank, addirittura adesso si stima che potrebbe costare 50 miliardi di euro l'intero salvataggio delle banche irlandesi, vuol dire in proporzione come se a noi costasse 500 miliardi di euro. L'Irlanda ha un decimo del PIL italiano, basta moltiplicare per 10, una cifra astronomica. Non solo, tra l'altro il fondo salva stati, quello che è stato creato per superare la crisi di maggio, la crisi greca di maggio, è pienamente operativo, si sta già lavorando a un'ipotesi di questo, cioè salvare l'Irlanda. Detto questo, il ministro alle finanze irlandese, Brian Linehan, ha detto che il deficit irlandese, come effetto anche del salvataggio delle banche, potrebbe arrivare, non sto scherzando, al 32% del PIL. Ora, siccome qua ragioniamo tra il 3 e il 5%, l'Europa considera che sopra il 3% sei già sanzionabile. Il 32% non sarebbe mai successo nella storia dell'area euro e, diciamo, dei paesi occidentali, non ho ricordi. L'America viaggia al 15-14, ma è un caso dovuto alla crisi. Insomma, una situazione complicatissima. Anche se il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha detto: non penso che dovremmo arrivare al piano di salvataggio per l'Irlanda. We took note of the announcement of the Irish government aiming at reinforcing the capital position. Questa mattina abbiamo accolto l'annuncio del governo irlandese per rafforzare la situazione del settore bancario. Pensiamo che i piani delle autorità irlandesi riguardanti la necessità di ricapitalizzare il settore bancario siano molto importanti e contribuiscano a fare chiarezza. Apprezziamo l'impegno per la correzione del deficit eccessivo entro il 2014. Ora aspettiamo le linee del piano pluriennale di aggiustamento economico e di bilancio da parte delle autorità, che dovrebbe presentare i dettagli delle misure di consolidamento fino al 2014 e anche riforme strutturali. Siamo fiduciosi che le autorità irlandesi saranno in grado di portare avanti il piano pluriennale di risanamento, in modo da ridurre il deficit sotto il 3% del PIL nel 2014. Insomma, speriamo che abbia ragione Juncker. Ancora un titolo, Olivia Zancaner, Telecom Italia, meno 0,80%, il Banco Popolare che è il peggiore, meno 1,5%, ma risente ancora del giudizio di Moody's. Telecom. Sì, allora Telecom ha risentito dei giudizi negativi sul settore telecomunicazioni in generale, infatti secondo alcuni operatori ed analisti non ci saranno grandi probabilità di crescita per i titoli, visto che la debolezza del mobile è comunque già scontata nei prezzi. Il giudizio sul Telecom resta comunque positivo, anche se nel terzo trimestre il business della telefonia mobile a livello nazionale resterà stabile e quindi non crescerà. Inoltre di oggi la notizia è che Telecom Italia ha cancellato il roadshow con gli investitori australiani specializzati nell'obbligazionario, quindi magari questo ha tolto un po' di visibilità. Allora, grazie anche per la pressione che oggi abbiamo messo. Olivia Zancaner di Radio Coro Sole 24 Ore. Notizia forte di oggi, appunto, il nome di Ghizzoni come successore di Alessandro Profumo in Unicredit. Adesso c'è il GR, poi parliamo anche delle dichiarazioni di Berlusconi, anche quelle relative ai media. Insomma, i media enfatizzano la crisi, torna sempre la tentazione di dire che la crisi è un po' colpa anche dei media. Ne parleremo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Focus Economia. :19, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dopo aver ascoltato le parole del numero uno delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, sulla decisione del TAR del Lazio, che ha detto no, si va avanti con la gara. Tutta la procedura per il 1,5 miliardi di treni ad alta velocità vinti dal consorzio Ansaldo Breda Bombardier, quindi respinto il ricorso di Alstom, aver parlato dei mercati e aver dato in diretta la notizia da Varsavia che il nuovo numero uno del gruppo Unicredit, chi prenderà il posto di Alessandro Profumo, è appunto Ghizzoni. E ancora su questo, aver ragionato su una borsa italiana che è andata meglio delle altre borse europee grazie ai bancari, grazie soprattutto anche a Fiat, confermo infatti il nome di Federico Ghizzoni. Adesso ci occupiamo da un lato dell'economia reale e, come anticipavo, il settore del marmo fa parte di questo, dall'altro poi di cosa, quanta colpa abbiano i media su questa crisi, nel comunicare questa crisi, perché se ne è discusso oggi a Roma, poi un cavallo di battaglia molto noto soprattutto ai politici e ai governi, che dicono i media sono sempre negativi, la crisi è colpa anche dei media. Allora, 349-238-6666 per gli sms. Iniziamo a parlare di un settore in cui l'Italia è leader a livello mondiale, e mi riferisco al settore del marmo. Questo nel giorno in cui, poco fa, lo avete sentito dal nostro GR, come notizie appena arrivate, l'autorità per l'energia ha spiegato che da domani la luce calerà di mezzo punto percentuale, il gas dello 0,1%. E sempre pochissimi minuti fa il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci ha detto che per quello che riguarda la Salerno-Reggio Calabria, ieri c'era stata anche molta ilarità alla Camera dopo la dichiarazione del presidente del Consiglio Berlusconi, mancano 60 chilometri, mancano ancora da affidare i lavori relativi agli ultimi 60 chilometri pressoché interamente progettati per ancora 2 miliardi e mezzo di euro. Dopodiché l'obiettivo, ha detto l'ANAS, è di completarli con gradualità entro il 2013. Con gradualità mi piace tantissimo, nessuna fretta, mi raccomando. Vabbè, parliamo di chi esporta e produce marmo. Il settore in Italia dà lavoro a 60.000 persone, 11.000 aziende, 3 miliardi di giro d'affari ogni anno, e noi siamo uno dei principali produttori mondiali di prodotti lavorati. Si è aperto ieri a Verona la 45esima edizione di Marmo Mac, che è la mostra internazionale di marmo, pietre, design, tecnologie. 1500 espositori, 53.000 operatori provenienti da 56 paesi. Siamo in collegamento col presidente di Verona Fiere, Ettore Riello. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti. Allora, buonasera. Ci dica che c'è qualche vento di ripresa, come si chiama il nostro approfondimento ogni giorno, anche nel settore del marmo. E se sì, da dove arriva la ripresa? Beh, è stato l'anno precedente, il 2009, è stato un anno veramente molto difficile, con riduzioni importanti, mentre il primo semestre 2010 sta dando realmente dei segnali di tendenza molto diversi. Non mi sento di parlare di ripresa, ma sono segnali molto importanti per le imprese e per il distretto, che occupa un numero importante, come stato anticipato, di addetti. Quindi risposta sì, siamo in una buona tendenza. Ecco, su questo, da dove stanno arrivando gli ordini? Cioè dall'Italia, oppure, come avviene per altri settori produttivi in Italia, solo dall'estero, principalmente dall'estero? Anche in questo settore la tendenza è simile. L'Italia ha leggerissimi miglioramenti impercettibili, però di buono è che ha frenato quella caduta molto importante dell'anno scorso. Tutta la crescita si concentra sull'estero, è un 6% di crescita, e soprattutto devo dire questa, poi se la si va a spaccare, il grosso di questa crescita è dovuta molto alle tecnologie, quindi si esportano molto macchinari. Paesi di riferimento sono i paesi nuovi, sono paesi importanti come Cina, come Brasile, come Turchia, Egitto e Algeria. Forse il dato più rilevante è proprio la crescita verso la Cina di tutta questa tecnologia, il che fa supporre una grossa tendenza locale alla lavorazione, all'estrazione della pietra, e forse anche ad un nuovo competitor sul fronte delle tecnologie. Cioè, noi gli vendiamo le macchine, ma poi loro vengono a venderci il marmo? Sì, credo proprio di sì, ma anche poi diventeranno essi stessi, credo, dei produttori di tecnologie, quindi questo è un obbligo forte per il nostro sistema paese italiano di recuperare molta competitività e soprattutto di fare molta innovazione. Allora, grazie, in bocca al lupo non tanto a lei, ma all'intero settore del marmo in questo caso, e quindi, ripeto, 11.000 aziende con 60.000 persone. Grazie al presidente di Verona Fiera, Ettore Riello. Grazie, in bocca al lupo. Arrivederci, buona serata. Si corre oggi, si corre, molti temi, e dicevo, comunicare nella crisi. Oggi se ne è parlato in un incontro organizzato da Confindustria con la Sapienza di Roma. Hanno partecipato numerosi ospiti, il vicepresidente Vincenzo vicepresidente di Confindustria, presidente della piccola industria, Vincenzo Boccia, Chicco Testa, presidente del Forum Nucleare, e lo stratega della comunicazione di Tony Blair, Alistair Campbell. Io adesso lascerei lo spazio alle informazioni sul traffico, poi ragioniamo, per quello che riusciamo con il tempo a disposizione, di rapporto tra media e crisi, in questo caso crisi finanziaria. Ne sono loro la causa, molti dicono che insomma la gente non consuma perché c'è un tale clima di sfiducia propagato dai media che non viene voglia di consumare. Ne parliamo tra un minuto, 349-238-6666 per gli sms. Focus Economia. Devo darle qualche consiglio. Non scherzi col fuoco, mi lasci perdere. Non stampi quella roba. E questo che vorrebbe essere? Un ordine? Se non stasera sarà domani, o fra una settimana, o fra un anno. Ma prima o poi la pagherà. Sentimi! Stampa quella roba e sei un uomo morto. Non si tratta più di me. Dovresti uccidere tutti i giornali del paese, non sei forte abbastanza per farlo. Gente come te ci ha già provato, col piombo, le prigioni e la censura. Ma fintanto che un solo giornale stamperà la verità, tu sei spacciato. Finiscila con queste tirate da melodramma, voglio una risposta, sì o no? Sì o no? Ehi! Hutchison! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente. È la stampa, bellezza, l'ultima minaccia, 1952, Humphrey Bogart, un film di Richard Brooks, in cui appunto si chiedeva di non stampare, da lì il titolo del film. In realtà il tema resta sempre di attualità e oggi se ne è parlato appunto a Roma, perché da più parti abbiamo sentito dire che insomma la crisi è stata anche amplificata, ce lo scrivono anche alcuni ascoltatori ogni tanto, date notizie negative, voi distribuite pessimismo. Un tema che ha toccato anche, non è nessun mistero, ne abbiamo parlato molte volte, il Presidente del Consiglio Berlusconi, l'ultimo intervento proprio nel rapporto media e crisi, in questo caso economico-finanziaria, era avvenuto lo scorso 26 giugno del 2009 durante la conferenza stampa per l'approvazione del disegno di legge sulla manovra finanziaria. Tutte le organizzazioni internazionali che un giorno sì e un giorno no escono e dicono deficit del 5%, meno consumi del 5%, crisi di qui, crisi di là, la crisi ci sarà per il 2010, la crisi si chiuderà nel 2001. Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano, non date, minacciate di non dare la vostra pubblicità a quei media che sono essi stessi fattore di crisi. Fattori di crisi, questo è il punto, non sapere se alcuni media sono più pessimisti perché stanno più vicini all'opposizione, altri più ottimisti se stanno vicini al governo, ma fattore di crisi, cioè un elemento che aiuta e crea anche la crisi stessa. Qualcuno dice, ma insomma perché non parlate di questo, prendete tempo in accademia e in filosofia? No, veramente mica tanto, è un tema delicatissimo perché è una responsabilità anche nostra. Sentite cosa ha detto oggi appunto l'incontro organizzato da Confindustria a Roma Alistair Campbell, che è lo stratega, lo spin doctor di Tony Blair, non l'ultimo arrivato. La prima domanda è: cosa realmente costituisce una crisi? Ritengo che uno dei più grossi problemi che affrontano le autorità politiche e le amministrazioni e le aziende è che spesso sono guidate dalla negatività dei media, dall'allarmismo. Spesso la gente confonde la smania dei media con una vera crisi. Una crisi vera, reale, richiede infatti risposte diverse e specifiche reazioni. Spesso vedo aziende e governi pensare di essere seriamente in crisi quando in realtà non lo sono. La mia definizione di crisi è la seguente. Si tratta di un evento che con forza sommerge te o una determinata situazione e che, se vengono prese decisioni sbagliate, comporta danni permanenti o addirittura fatali all'organizzazione. Ecco perché ritengo che siano piuttosto i media in uno stato di crisi, perché non hanno capito che il loro atteggiamento ha avuto un impatto negativo. La prima regola è conoscere la differenza tra una crisi reale ed una alimentata dalla smania dei media. Questa è la mia prima regola su come gestire la comunicazione in tempi di crisi. Okay? That is my first rule of crisis management. E quindi attenzione a vedere solo nella politica italiana. Alistair Campbell, che sicuramente non è vicino a Berlusconi, che è stato lo spin doctor e responsabile della comunicazione del governo britannico guidato da Tony Blair, quindi laburista, dice una cosa in qualche modo simile a quella del Presidente del Consiglio, e l'ha detta oggi. E cioè c'è un impatto negativo dei media in questa crisi, nel creare la crisi, nell'alimentare la crisi. Allora, visto che ci è arrivata questa provocazione oggi da Alistair Campbell, ne vogliamo parlare nel finale del programma e chiaramente lo facciamo anche con un ospite, ossia il professor Giampaolo Gironda, che è esperto in comunicazione in caso di crisi. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Lei si è occupato con noi soprattutto di quando c'era l'11 settembre, la guerra in Iraq, l'Afghanistan. Lasciando stare i casi in cui i giornali fanno gran terrorismo, per esempio il vaccino di quello dello scorso autunno, ha ragione il ministro Fazio, no? Tutti a correre a comprarsi il vaccino, poi in realtà così non è stato, un po' più di serietà nella mia categoria ci vorrebbe. Però su questa crisi economico-finanziaria la domanda è molto semplice, insomma è il media che genera la sfiducia, in questo caso la radio, Del consumatore che quindi non investe, non pianifica, insomma, questa è la vulgata della politica, certo. Oppure il fatto che quando uno ha un negozio e non fa, o un'impresa e non ha ordinativi, oppure ha il figlio con 1000 euro al mese senza prospettive di aumento, oppure perde il lavoro in cassa integrazione, cioè voglio dire, c'è un'esperienza empirica che ogni ascoltatore o lettore fa, per cui io posso dire che la crisi è terribile, se poi però lui vede che il negozio va bene o il datore di lavoro gli dà gli aumenti, mi crede fino a un certo punto. Cioè vorrei capire quanto è colpa nostra la sensazione di questa crisi e quanto invece la crisi ci sia. Prego. Ma vorrei fare una premessa su quel brano che avete riportato del film rapida. Su quelle parole che ha detto Berlusconi. Non sono assolutamente d'accordo con il testo del film con Humphrey Bogart. Ovviamente sono parzialmente d'accordo con quanto detto oggi nel convegno a Roma. In realtà il consumatore, se seguiamo questo principio, lo consideriamo come un consumatore sciocco ed imbecille, non colto, che si fa influenzare da certamente un minimo di allarmi. Pronto? Abbiamo perso la linea, un minimo di allarmismo, siamo rimasti su questo e adesso stiamo recuperando la linea con il professor Gironda, perché mi interessava capire dove porre il limite tra la parte, diciamo, di crisi vera e propria e la parte invece di comunicazione. Intanto sentiamo cosa ha detto oggi il vicepresidente di Confindustria, presidente della piccola industria, sempre in tema di crisi e comunicazione al convegno organizzato da Confindustria. Un paese, l'Italia, che ha il più alto tasso di imprenditorialità d'Europa e che evidentemente ha una ragione nel superamento della crisi. Forse ha un limite nella incapacità, tra virgolette, nel comunicare e nel narrare come facciamo a superarle. Ma la questione sostanziale, cioè, perché se siamo qui oggi e se abbiamo il più alto tasso di imprenditorialità d'Europa e se siamo il secondo paese manifatturiero dopo la Germania, evidentemente una ragione sostanziale di superamento di crisi c'è. Su 139 economie mondiali, il rapporto sulla competitività mondiale 2010-2010 posiziona l'Italia al 48esimo posto. Così Vincenzo Bocci. Allora abbiamo ripreso il professor Gironda a concludere il ragionamento. Mi scusi. Il ragionamento è molto semplice: dire non si dà pubblicità, non bisogna dare pubblicità ai media catastrofisti, lo trovo un omicidio alla libertà di stampa. Vabbè, ma questo secondo me tutto qua. No, ma io voglio capire quanto pesiamo, perché questa cosa dei media della crisi è 2 anni che ci ragioniamo sulla capacità. Allora, è vero che poi il consumatore non va a consumare perché noi abbiamo fatto un programma troppo negativo. Mi dica. Contate nel senso che giustamente contate nel formare l'opinione, e che sia il consumatore a valutare se voi siete catastrofisti o meno. E se il consumatore non è sufficientemente maturo e si fa influenzare perché da una parte di uno schieramento piuttosto che dall'altro si preconizzano tempi durissimi, piuttosto che dall'altra parte si dice no, la crisi non è così catastrofica, è il consumatore che deve fare una scelta, così come non si può comprare un unico giornale e pensare che quello sia la bocca della verità. Per formarsi un'opinione bisogna comprarne quattro. Bisogna avere la possibilità di formarsi un'opinione leggendo e sentendo più voci. Sì, quindi lei dice c'è un'idea non solo in Italia, perché Alistair Campbell appunto ha lavorato per Blair per anni, che questo lettore, ascoltatore o consumatore poi alla fine sia un po' appunto un minus habens, per cui se noi diciamo che le cose vanno male lui esce fuori e si rende conto della stessa cosa. Grazie. Invece così non è, perché poi la verifica la fa tutti i giorni. Grazie. Infatti. Grazie. Se posso dire un'ultima cosa. Due secondi. Finale, velocissima. Il consumatore, se fa delle scelte sbagliate perché sente solo una campana, non può far altro che piangere su se stesso. Grazie al professor Giampaolo Gironda, in collegamento con noi, esperto di comunicazione in caso di crisi. Allora, Giuseppe Cruciani, stiamo ragionando del ruolo dei media nell'aver creato questa crisi che ricorre successivamente oggi non solo il Presidente del Consiglio Berlusconi, ma anche Alistair Campbell a dire la stessa cosa. I media hanno creato in parte questa crisi. Di cosa ti occuperai tu invece tra poco nella Zanzara? Della politica, come al solito, di una frase pronunciata da Ciarrapico in aula al Senato sul Kippa e di altre amenità. Il teatrino, della politica, come al solito. Va bene, tra poco Giuseppe Cruciani, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.